E secondo me è importante che la musica lasci la libertà a ognuno in modo diverso di essere in qualche modo ispirato a vedere delle cose. Difatti, tutte le volte che mi chiedono di lavorare a delle musiche con dei testi, mi è capitato di farlo, però mi piace molto proprio la musica senza parole perché lascia questa libertà in più, è proprio come se la musica ti apre delle porte dentro e sei ispirato a fare qualcosa. C'è molta gente che vedo che scrive dei pensieri come quelli che abbiamo ascoltato adesso, c'è gente che scrive delle poesie, romanzi, cioè, quindi mi scrivono in tanti. Però diciamo che per me una delle cose più belle è sapere che la mia musica genera appunto ispirazione in altre persone. Questo mi sembra un regalo molto bello da poter fare. E questo, diciamo, naturalmente è successo anche a me in passato ascoltando altre musiche o leggendo dei romanzi.